Buongiorno a tutti, anche se di buongiorno non si può davvero parlare. Questa è un'edizione speciale del GR. Siete in diretta su bandaradio.info. Stamattina, come uno spot annunciato, vi è stato un pesante sgombero tuttora in atto a Piazza Guzzetta. Abbiamo qui con noi uno degli occupanti e degli abitanti di Casa Guzzetta. C'è con noi Francesco e ti chiediamo subito come sono andate le cose. Allora, ciao a tutti, io sono Francesco Dominici, faccio parte di un nucleo familiare di Casa Guzzetta. Stamattina ci siamo svegliati con le forze dell'ordine che hanno rotto tutto, noi con le chiavi in mano a tentare di darli per farle entrare, invece loro hanno voluto adoperare la forza perché si credevano che trovavano delle famiglie che protestavano, invece noi pacificamente abbiamo aperto, loro sono entrati. Ci hanno buttato fuori, io ho una bambina di 8 mesi, neanche mi hanno fatto fare il latte per la bambina, subito hanno levato la bombola. È da premettere che noi abitavamo in casa Guzzetta da più di 2 anni. Quando siamo entrati in questa struttura qua, era in abbandono totale, grazie ai ragazzi dei centri sociali, il Comitato Lotta per la Casa e tanta altra gente che ci ha aiutato, l'abbiamo resa un pochettino più vivibile. Non è una... Ricordiamo che era cominciata proprio una pratica di autorecupero, il primo caso in città su Casa Guzzetta, dichiarata inizialmente inagibile, che inagibile è rimasta parzialmente, perché i famosi due pilastri del piano di sotto sono inagibili. Sì, si era pure parlato di metterli noi in sicurezza e cose, non ci hanno dato la possibilità. L'unico, ci hanno promesso sempre delle alternative che come oggi invece sono dimostrati di non essere vero. L'unica soluzione che loro hanno è avere la soluzione per i mobili, ma per le famiglie niente. Siamo di nuovo in mezzo alla strada, non sappiamo cosa fare. Cioè, hanno mandato di nuovo un esercito che non c'era di bisogno, tutti questi soldi che spendono per fare gli sgomberi e non prendono una soluzione invece per i nuclei familiari. Noi siamo 7 famiglie che siamo in disagio totale, non sappiamo cosa fare, ora siamo di nuovo in mezzo alla strada, io ho la bambina di 8 mesi e non so come fare, siamo in tutto 37 persone lì dentro. 8 adulti e tutto il resto bambini. E la situazione è questa qua. Tutto questo succede in contemporanea al fatto che sia il sindaco che il vice sindaco si trovano in Sudafrica a guardare le partite dei mondiali dell'Italia. Questo dovrebbe fare un attimo riflettere su qual è la condizione dell'amministrazione palermitana, Sì. considerando anche il fatto che in tutti questi anni sono state paventate delle non soluzioni abitative che comunque sono costate un sacco di soldi. Decine di migliaia di euro per il ripristino dei container, poi occupati e qualcuno addirittura assegnato, decine di migliaia di euro per gli alberghi e in tutto ciò centinaia di beni confiscati alla mafia lasciati sempre in disuso e non, se non assegnate a uso fittizio a associazioni a dir poco fantasma. Tutto questo succede nella città più cool d'Italia, almeno così la fa passare il nostro pseudo sindaco fantasma. In questo momento gli abitanti di Casa Guzzetta sono ancora dentro. Innumerevoli forze del disordine si ritrovano ancora lì ad aver isolato totalmente la zona. E vi è anche un considerevole numero di compagni e compagne, realtà di base, soggetti che si trovano a ridosso di Casa Guzzetta, con i quali si sta cercando di organizzare il proseguio di questa lotta. Ricordiamo qualche appuntamento, vi sarà un sit-in in prefettura a brevissimo. Successivamente si è dato un appuntamento per le 7 del pomeriggio di fronte Piazza della Vergogna, dove non a caso vi è il comune di Palermo. Ci sarà un consiglio comunale questo pomeriggio alle 19 proprio per discutere l'emergenza TARSU. E il concentramento per tutti coloro che sono in ascolto, lo ricordo, è alle 19 proprio davanti al comune. Da questo pomeriggio Casa Guzzetta sarà una specie di locale, diciamo, itinerante, nel senso che tutti coloro che possono, vogliono e devono riversarsi in quella zona troveranno dei sound, troveranno banda radio, tanta altra gente che cercherà di rendere il più visibile possibile una questione che è fondamentale in questa città, che è quella del diritto all'abitare. Francesco, Francesco, volevi dirci qualche altra cosa sulla questione proprio delle famiglie? Avete idea di quello che può essere il proseguo, o semplicemente vuoi raccontarci cosa è stata finora Casa Guzzetta? Casa Guzzetta per noi è stata una casa, innanzitutto è stata una casa, perché la sera il nucleo familiare era tutto unito, pure che non era, però noi ci vivevamo, era una casa, cioè, che ancora tuttora mi piange il cuore, neanche posso parlare per il nervosismo e cosa sto vivendo oggi. Però loro, cioè le istituzioni non vogliono tutto questo, vogliono che le persone vanno in mezzo alla strada, il resto, cioè, tocca a noi provvedere. Perché stamattina c'era un assessore comunale e la risposta che ci ha dato, gli ho detto assessore Carta, ricordiamo. Sì, ma ora cos'è per noi? Dice, non c'è nessun provvedimento, non si sa nulla, dice, arrangiatevi così. E questo è quello che sanno fare. Per il resto lì dentro, i ragazzi e tutta la gente che tipo ha raccolto fondi, ora Casa Guzzetta era un bel posto, bambini che venivano a giocare, noi lì dentro abbiamo pure delle persone delle Bangladesh, perciò non siamo dei, cioè era una casa che era anche un risultato di integrazione, sì, accettavamo tutto, persone che venivano là, si facevano delle feste per raccogliere fondi, tutto questo vuol dire che a loro gli dà fastidio, perché le cose buone a Palermo vanno soltanto eliminate. Soltanto con il pugno duro dello Stato si sa intervenire, si sa buttare fuori le persone che sono per loro invisibili, tanto dicono sono gli ultimi, rimangono gli ultimi e nessuno si pone il problema. Stasera dove vanno questi bambini? Stasera come si fa? E loro l'unico problema, dice, la struttura era inagibile. E ora noi in mezzo alla strada? Nessuno ci dà una risposta. Ricordiamo infatti che il pretesto con il quale è stato sgomberato Casa Guzzetta è proprio l'inagibilità del posto. Sì, ma dopo tutti, Cristian, tutti sapevano, perché siamo stati convocati dalla procura, tutti sapevano la situazione che vivevamo, perciò prima di fare un'operazione del genere, cioè, bisogna trovare una soluzione, non sono stati in grado di trovare una soluzione. Poi tra l'altro la tiri fuori dopo 2 anni questa cosa del... E appunto, quando noi abbiamo fatto diversi studi con altri architetti mettendo in sicurezza tra l'altro l'unica parte di Casa Guzzetta inagibile, sì. Quindi anche questa è una cosa parecchio contestabile. E poi aggiungo che il comune stesso, sia per i sudanesi del Laboratorio Z che per le famiglie che in questo momento sono con le tende davanti l'Insula 3 allo Zen, ha palesato come soluzione Piazzetta della Pace, che il comune stesso dichiara inagibile. Sì. Quindi proprio è un paradosso continuo questa città. Ad ogni modo, noi diamo massima solidarietà a tutti gli abitanti di Casa Guzzetta, invitiamo tutti coloro che sono in ascolto a recarsi il prima possibile al vicolo Santa Rosalia, proprio nella traversa accanto a Casa Guzzetta, che speriamo sia liberato quanto prima da quegli aborti sociali in divisa, sbirri maledetti. Sì. Ci vediamo lì per tutto il proseguimento della giornata.